2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 4 dicembre 2010, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo di posta elettronica, prima di iniziare con i nostri approfondimenti, le nostre notizie, molto semplice, 2024@radio24.it. E poi vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24. Tutte le informazioni sono online sul nostro sito internet www.radio24.it, ma come sempre vi ricordo che per abbonarsi gratuitamente al servizio podcast, a qualunque servizio podcast, è necessario utilizzare alcuni software dedicati o solo o anche al servizio podcast. Sono molto semplici da utilizzare, si trovano gratuitamente in rete. Se volete maggiori informazioni potete anche scriverci una email se non le trovate online sul nostro sito o su altri siti internet. Alcune notizie prima dei nostri approfondimenti. Oggi parleremo di digitale terrestre, visto il caos che è successo nel nord Italia, in Lombardia in modo particolare, e poi parleremo anche del caso Google, che è sotto il mirino dell'antitrust europeo. Naturalmente ne parleremo dal punto di vista tecnologico, non entreremo in questioni che interessano gli economisti, i giuristi, parleremo del funzionamento e delle accuse che vengono fatte al motore di ricerca. Richard Branson, il fondatore attuale numero uno della Virgin, ha lanciato un nuovo magazine concepito per l'iPad e anche per gli altri tablet. Si chiama The Project, quindi progetto, il progetto, costa $2.99. Secondo la Virgin è il primo al mondo di questo tipo e rappresenta il futuro delle news, perché per la prima volta un giornale può essere non solo letto ma anche ascoltato, e i lettori possono trasformarsi in ogni momento in giornalisti, blogger, contributori, dando vita ad una dimensione interattiva dell'informazione. Questo secondo la Virgin. Bisognerà provare questo The Project della Virgin, che precede di qualche settimana l'uscita di un altro progetto per iPad intitolato The Daily e lanciato dalla News Corporation di Robert Murdoch. In questo caso stiamo parlando però di un quotidiano, mentre The Project è un contenitore che non necessariamente viene aggiornato ogni giorno, ogni ora, ogni minuto. Vedremo se queste novità lanciate principalmente e prima di tutto per iPad, che poi verranno estese anche agli altri tablet, avranno successo. A proposito di tablet, la Samsung questa settimana ha annunciato di aver superato il milione di unità vendute del Galaxy Tab. Il milione di unità vendute del Galaxy Tab, lanciato ad ottobre sul mercato italiano, è oggi disponibile in 64 paesi in tutto il mondo. Il Galaxy Tab è sviluppato su sistema operativo Android ed è considerato al momento il principale concorrente dell'iPad della Apple, che nei primi due mesi dalla commercializzazione aveva però segnato vendite di oltre 2 milioni di esemplari, quindi circa il doppio rispetto al tablet di Samsung. Ricordo che siamo in attesa di vedere sul mercato altre forse decine di tablet che usciranno nei prossimi mesi. A proposito, nel mercato entrerà anche Research in Motion, il produttore canadese del BlackBerry, che ha acquistato questa settimana, o meglio ha annunciato di aver acquistato, una società svedese che si chiama The Astonishing Tribe. L'azienda fa software, produce applicazioni per molti telefoni, in particolare quelli con sistema operativo Android. Questa è la quarta acquisizione importante per RIM quest'anno, che deve cercare di mantenere una leadership nel segmento smartphone. Per il mondo business sta anche cercando di aumentare la propria presenza nel mercato consumer, e nel primo trimestre del 2011, come dicevo poco fa, lancerà il proprio tablet. Secondo gli annunci sarà sviluppato su un sistema operativo proprietario, cioè sul sistema operativo del BlackBerry. Un'ultima notizia riguarda LimeWire, che è un popolare software per il peer-to-peer. Chiuderà il 31 dicembre, schiacciato dalle cause delle major musicali. L'annuncio arriva dopo che in ottobre un giudice della Corte Distrettuale di New York aveva condannato il sito per violazione del copyright. Adesso parliamo di digitale terrestre perché forse avrete seguito le polemiche di questi giorni, c'è molto caos, soprattutto in Lombardia, addirittura se ne è accorta il sindaco di Milano, Letizia Moratti, che ha definito il passaggio dall'analogico al digitale terrestre un disastro. E se se ne accorge la Moratti o comunque in generale la politica, che normalmente fatica ad accorgersi e a parlare di questioni tecnologiche, beh, per la verità i politici faticano ad accorgersi anche di molte altre cose che non funzionano nel paese in generale, però se ci si accorge di questo caos che sta creando il passaggio dall'analogico al digitale terrestre tra la popolazione, beh, forse vorrà dire che i problemi sono piuttosto evidenti. Ci aiuta Gianfranco Giardina, nostro esperto di audio e video digitale, direttore del magazine online dday.it. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille e bentrovati a tutti gli ascoltatori. Tu da molto tempo, da molti anni, già prima che iniziassero a diventare all digital le prime regioni, ricordiamo che ha iniziato la Sardegna a diventare regione completamente digitale un paio di anni fa, tu hai seguito molte vicende legate al digitale terrestre, perché di fatto stiamo parlando di un prodotto tra i più popolari, forse il più popolare, quello della cioè la TV. Che cosa è accaduto in questi giorni? Cioè, perché è stato definito un disastro questo passaggio dalla vecchia tecnologia analogica al digitale terrestre? Bisogna ricordare che il Nord Italia e la Lombardia in generale è poi una delle aree più ricche del paese, se non l'area probabilmente più ricca del paese, e anche densamente popolata. È un'area dove si concentrano anche moltissime emittenti e la voglia di tutte le emittenti di esserci, quindi anche, diciamo, l'etere è bello congestionato. No? Quindi è chiaro che le difficoltà di fare un passaggio completamente al digitale in quest'area sono più alte rispetto a quello che poteva essere in Sardegna, che non a caso è stata scelta come prima area test. Quello che è successo è che questo spegnimento delle frequenze analogiche ha preso tantissimi in contropiede, non tanto perché non si fossero equipaggiati per tempo, ma anche e soprattutto perché lo spostamento delle frequenze, che comunque è fisiologico in un passaggio di questo tipo, ma in questo caso è stato, diciamo, un po' aggressivo, ha mandato molti impianti fuori uso o parzialmente fuori uso, o comunque ha causato parecchi disagi ai consumatori, che hanno perso dall'oggi al domani determinati canali che prima vedevano anche magari già in digitale e poi nel riassetto delle frequenze non sono riusciti a vedere più. Va anche detto che il Nord Italia, tutta questa zona del Nord Italia, contrariamente per esempio al Lazio, quello che succede a Roma, è fatto largamente di impianti condominiali, che quindi hanno delle caratteristiche diverse dall'impianto singolo dove ognuno ha l'antenna. Tipicamente l'impianto condominiale, essendo più strutturato, meglio strutturato per il mondo dell'analogico, ha anche dei filtri che impedivano nel mondo analogico di avere dei disturbi e quindi una ricezione migliore. Questi filtri oggi diventano un fastidio perché non fanno passare alcuni canali che prima non erano impiegati o erano impiegati con canali di serie B, diciamo così, che il condominio poteva decidere di scartare, e invece oggi contengono dei bouquet digitali, in alcuni casi anche molto importanti. Poi si aggiungono anche altri problemi di cui magari parleremo, che sono un po' più di ordine tecnico, ma che poi si trasferiscono in un ordine assolutamente pratico per il consumatore. Stiamo parlando di digitale terrestre, ricordo che dal 26 novembre sono passate a questa nuova tecnologia, che per alcuni è già una vecchia tecnologia, la Lombardia e il Piemonte orientale, le province di Piacenza e Parma. Dal 15 dicembre il passaggio interesserà, il passaggio definitivo, perché già qualcosa sta accadendo, dicevo, passeranno definitivamente alla tecnologia digitale l'Emilia Romagna, o meglio il resto dell'Emilia Romagna, visto che Piacenza e Parma sono già passate, il Veneto, il Friuli, Venezia Giulia. Naturalmente nelle zone di confine, in queste aree, a volte c'è qualcuno che ricade da una parte o dall'altra, dipende in quale parte del confine ci si trova. Visto che le frequenze non sono così precise come i confini geografici. Gianfranco Giardini è con noi oggi per capire che cosa è successo al nord, ma questo poi interessa gran parte dell'Italia, visto che il nord è la zona più popolosa rispetto al passaggio della nuova tecnologia, poi molte regioni del centro e sud Italia saranno interessate nei prossimi mesi. Che cosa è accaduto in Lombardia in modo particolare? Mancanza di capacità o volontà, cattiva volontà dei broadcaster, insomma sono le TV che hanno fatto qualche pasticcio, o vincoli tecnologici effettivamente poco prevedibili, che cosa? Beh, allora, partiamo da un presupposto. Su un canale, quindi su una frequenza, dove prima ci stava una sola trasmissione analogica, adesso ci può stare un bouquet di trasmissioni, 4, 5, 6 canali. Quindi prima un canale, adesso più canali. Più canali. Il buon senso e la tutela del consumatore avrebbe qualche modo richiesto l'utilizzo dei canali principali, tanto per intenderci quello che c'era Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Rete 4, Italia 1, quindi stiamo parlando già di 6 frequenze. Mettiamoci anche la 7. Anche la 7, quindi parliamo di 7 frequenze, queste 7 frequenze equivalgono a una trentina di canali, no? Mal contati, ecco, per i canali principali. Perché? Perché un impianto che riceveva correttamente il segnale analogico di questi canali sicuramente è, senza fare nessun intervento sull'antenna, già in condizione di ricevere i canali digitali, ovviamente moltiplicati per il numero che la tecnologia digitale offre, quindi avere su una frequenza più canali. Questo a me non è successo. Se si fossero garantiti quantomeno che le emittenti principali nazionali free fossero state posizionate sulle stesse frequenze le quali già i consumatori le ricevevano in analogico, beh certo gli adeguamenti agli impianti non ne sarebbero necessitati, almeno per vedere i canali principali. Invece? E invece quello che è successo nel resetto delle frequenze, che su quelle frequenze molte volte sono finiti i canali a pagamento. Motivo per cui sicuramente i canali a pagamento si ricevono, anche da parte di chi non ha intenzione di pagare alcunché e di vedere nessun canale a pagamento. E i disservizi, e di qui il concetto del disastro appunto indicato da Letizia Moratti, ma poi più che altro, più che Letizia Moratti, diciamo, sperimentato da moltissimi cittadini. Sì, sì, io devo dire che ho ricevuto una marea di o segnalazioni o domande di persone che io per molti giorni ho tenuto spenta la TV e quindi non mi sono accorto di questo caos, e molti mi dicevano: guarda, non vedo più nulla, cosa devo fare? Il problema è stato proprio questo. Ci sono delle situazioni, quindi, per esempio, diciamo, su Milano, che riguardano anche Rai 1, 2, 3, no? Che per molti utenti sono scomparse, e qui bisogna fare poi degli interventi o sull'antenna o anche semplicemente sul decoder o sul TV, ma interventi non così semplici che possa fare un utente non specializzato. Diciamola questa cosa, cioè tu ti riferisci a... Mi riferisco al fatto che per esempio il bouquet con su Rai 1, 2, 3 è stato posizionato su una frequenza che era una frequenza che da pochi mesi è stata leggermente spostata per adeguarla alle frequenze europee, un obbligo che avevamo già da tempo, e gli apparati che hanno, diciamo, più di un anno, parlo sia di ricevitori che di TV, spesso non sono in condizione spontaneamente, diciamo così, con la ricerca automatica, non vanno a cercare quella frequenza, ma vanno a cercare quella vecchia. Su quella vecchia non trovano niente, su quella nuova c'è Rai 1, 2, 3, e allora bisogna andare o manualmente e inserire il canale 205-500, parlo per Milano, ma bisogna essere molto informati, molto capaci, e l'apparecchio lo deve consentire. Oppure, paradosso dei paradossi, bisogna, quando si fa la regolazione iniziale del ricevitore o del TV, e normalmente viene chiesto lingua e si mette italiano, nazione si mette Italia, no, lì bisogna mettere Germania, perché a quel punto il TV va a fare la scansione sulle frequenze, ovviamente che sono quelle tedesche, ma sono ormai quelle europee, e che sono già adeguate. Quindi il TV, anche vecchio, è in condizione di prendere il segnale di Rai 1, 2, 3, ma bisogna impostare Germania. È una cosa che ovviamente non è ammissibile che possa accadere per degli utenti assolutamente normali le tre emittenti nazionali, Rai 1, 2, 3, insomma. Sì, è veramente incredibile. Tu hai detto, hai fatto un riferimento importante, hai detto decoder che magari hanno già un anno, TV che hanno il decoder integrato che hanno già un anno, perché dicevi che in Lombardia in modo particolare molta gente aveva già acquistato per tempo questi strumenti, cosa che invece non sta accadendo in altre parti. La sensazione ce l'avevamo. Adesso, guardando i numeri di vendita, abbiamo delle certezze. Quello che sta succedendo a Milano e Lombardia è che c'è un grande ricorso a decoder di basso costo e TV di piccolo taglio per adeguare il secondo e il terzo TV della casa, ma il TV del salotto in larga parte era già stato sistemato con acquisti nei mesi scorsi, mentre in altre zone, come è già stato in passato in Lazio, Campania, Sardegna, Piemonte, quello che sta succedendo adesso nel Triveneto, ci dimostra invece che le altre aree sono un po' più alla rincorsa, cioè in realtà si stanno facendo grande ressa nei negozi in questo momento per adeguare i corsa anche il TV principale. Quindi in questa zona, ecco perché in Lombardia il problema è stato forse ancora più marcato, c'è anche una discreta popolazione di TV e di decoder già installati che hanno qualche annetto. Ecco. Senti, i prezzi dei decoder in queste aree che stanno passando al digitale terrestre o quelle che passeranno, nei punti vendita fisici stanno aumentando o non avete segnali del genere? No, non stanno aumentando perché c'è comunque una grande concorrenza. Quello che si sta verificando in alcuni casi è che stanno andando esauriti gli apparecchi che sono magari più interessanti per posizionamento di prezzo, per caratteristiche, parliamo delle fasce più basse, e quindi poi bisogna accontentarsi di marche magari non così famose. In questo caso devo dire la marca qualcosa conta. Molte volte noi diciamo che la marca non conta perché poi le tecnologie sono uguali per tutti, ecco, in questo caso conta più che altro per due aspetti. Primo, per il software che è montato sul decoder che permetta di fare tutte le regolazioni del caso, e secondo per l'aggiornabilità. Questi abbiamo visto che la situazione del digitale terrestre è tutt'altro che stabile. Anche le zone che sono passate in switch off in questi giorni saranno soggette a riposizionamenti di frequenze e quindi alla necessità di rifare continue risintonie. Questo potrebbe cambiare alcune cose e potrebbe magari richiedere l'aggiornamento del software del ricevitore. Le marche più importanti aggiornano frequentemente i loro ricevitori e l'aggiornamento si trova via etere, si prende via etere, quindi si chiede semplicemente da menu, si fa aggiornamento. Schiaccia un bottone. Sì. Mentre le marche meno conosciute non aggiornano i propri software, e quindi se l'apparecchio ha una tara di qualsiasi tipo non c'è nessuna speranza che questo venga riparato, bisogna semplicemente renderlo in quel caso. Sì. Poi a proposito della dinamica dei prezzi della concorrenza, ricordiamo che se non ancora con numeri incredibili, però molti italiani stanno cominciando a comprare online. E online parliamo di negozi che si rivolgono a tutto il territorio italiano, quindi non subiscono queste dinamiche del qua stanno facendo lo switch off e quindi tutti vanno al punto vendita. Uno può guardare sì. anche giusto per confrontare i prezzi i negozi online. Passiamo al che cosa fare. Adesso abbiamo spiegato, seppur semplicemente, quello che è successo e quello che potrebbe succedere anche nelle altre zone. Ricordiamo appunto che nella prossima settimana terminerà lo switch off in Emilia Romagna, in buona parte dell'Emilia Romagna, in Veneto, in Friuli, Venezia, Giulia. Se uno non vede più nulla o vede una parte di canali, che cosa deve fare? Allora, prima di chiamare l'antennista, certo, perché poi sugli antennisti parliamo. Su antennista magari è l'ultimo passo. La prima cosa è chiaramente distinguere se un impianto condominiale o un impianto autonomo. Se l'impianto è condominiale, la primissima cosa da fare è tornare a parlare con i propri condomini, cioè suonare al vicino di casa e confrontarsi su quello che con altri apparecchi, con altri ricevitori, lui vede, perché molte volte se il limite è proprio di sintonia dell'apparecchio, del ricevitore che va aggiornato, che va cambiato, o il problema che dicevamo prima della frequenza che non è aggiornata sul ricevitore, ecco che lo scopriamo subito. Se invece tutto il condominio non vede più un determinato canale, è molto probabile che il problema risieda nell'impianto d'antenna centralizzata. Domanda facilissima, ma tu vedi Rai 1? Se uno non vede, esatto. Tu vedi il canale che io non sto vedendo, insomma, esatto. lo vedi. Quindi a quel punto già una prima verifica si è fatta. Se invece gli altri, con molta rabbia nostra, vedono chiaramente i canali che a noi mancano, beh, il problema è tutto interno, non può essere un problema legato all'impianto d'antenna. Quindi può essere un problema dove il segnale è molto debole anche del cavo d'antenna. Se il cavo d'antenna è vecchio, è un po' rovinato e il segnale è un segnale che ha una potenza di soglia, ecco, magari semplicemente cambiando il cavo d'antenna si può migliorare. Consiglio, esistono cavi di antenna anche da un euro. Se il problema risiede nel cavo d'antenna, quindi se si ha un segnale un po' deboluccio, è bene non risparmiare qualche euro in più sul cavo d'antenna, perché poi rischiamo di avere anche un cavo nuovo, ma con tali perdite che comunque non ci garantiscono che il segnale arrivi correttamente fino all'apparecchio, che sia TV o ricevitore. Ci sono degli appassionati di cavi e potremmo fare trasmissioni lunghe 8 ore solo sui cavi. E sarebbero sempre molto noiose. Però. Sarebbero molto noiose, certo. Invece la cosa più frequente che viene detta, e la do quasi per scontata, è quella di rifare la sintonia. La do quasi per scontata perché è la cosa che alla fine provano tutti. I canali cambiano in questi giorni spesso posizione, frequenza, bouquet, anche perché poi le emittenti ricevono delle lamentele. Quando le lamentele sono eccessive per la non ricezione di un tal canale, decidono di spostare quel canale da un bouquet all'altro, ma il ricevitore lo scopre solo quando viene fatta una risintonia, non è che se ne accorge autonomamente. Addirittura alcuni ricevitori sono impostabili o impostati di fabbrica per rifare tutte le notti intorno alle 4 la risintonia automatica. Questo proprio per sollevare. No, ce ne sono. Direi che almeno un 50% dei nuovi apparecchi sono in grado di fare questo. È proprio per sollevare il consumatore dal soltanto pensare, chissà se mai è successo qualcosa, prova a farla. Quindi diciamo che se in una notte dei prossimi giorni in alcune aree viene fatto un riposizionamento di frequenze, quei decoder la mattina continuano a funzionare, ci fanno vedere tutti i canali. Sì, non solo, alla riaccensione presentano un messaggio dicendo sono stati trovati nuovi canali, sono stati inseriti in fondo alla lista, sono stati inseriti al numero 5, 10, 12, 20. Quindi, un po' come l'RDS della radio. Un po'. Una specie di... Quindi di fatto questo semplifica la vita. Questa è la seconda parte di 2024, io sono Enrico Pagliarini, grazie come sempre per la vostra attenzione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024, scritto in cifra, quindi 2024@radio24.it. Vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile nel nostro servizio podcast, per questo ringraziamo Paolo Corleoni che oggi si occupa della parte tecnica. Stiamo parlando del digitale terrestre, dei problemi che ci sono stati e ci sono ancora, soprattutto in Lombardia, ma in molte zone del nord Italia dove sta avvenendo il passaggio alla tecnologia digitale per le trasmissioni televisive. È con noi Gianfranco Giardina che guida il magazine online D-Day.it. Abbiamo detto che una prima cosa da fare quando non si vedono alcuni canali è chiedere al vicino, tu vedi questo canale, tu vedi quest'altro canale, controllare l'impianto, insomma magari se un impianto è vecchio, ha vecchi cavi, quello potrebbe anche essere un problema, ma sicuramente una delle prime cose da fare è la risintonia di tutti i canali. Allora Gianfranco, altro o altri ordini di problemi? Un altro ordine di problema potrebbe essere, soprattutto nei ricevitori vecchi, l'assenza della funzione LCN. La funzione LCN è importantissima malgrado la sigla non significhi nulla detta Logical Channel Numbering, vuol dire praticamente l'autonumerazione dei canali. Al di là del fatto che uno potrebbe anche subirla un po' come un'imposizione, però è in realtà molto comoda, perché le strategie per un tuner per sintonizzare i canali e numerarli possono essere soltanto due: o avere un sistema di autonumerazione, oppure fa la scansione delle frequenze, man mano che i canali arrivano li mette in fila. E questo vuol dire che non si ha RAI 1 sull'1, RAI 2 sul 2, RAI 3 sul 3 se non c'è questa funzione, ma magari RAI 1 è al numero 72. Ecco, e quindi ogni volta che si rifà la sintonia, abbiamo detto che questa operazione va fatta periodicamente, RAI 1 finisce a un canale lontano. Allora bisogna prendere manualmente e fare lo spostamento di tutti i canali, che se si fa una volta nella vita, come si faceva nel mondo analogico, va ancora bene. Ma se si deve fare più volte a settimana è una pazzia. Guai poi se addirittura il ricevitore rifà la sintonia autonomamente, come dicevamo prima, e quindi scompiglia tutti i canali. Sì. Con la funzione LCN, che oramai è integrata in tutti i ricevitori attuali, ma potrebbe non essere integrata in TV e ricevitori un po' più datati, se c'è questa tecnologia, ogni volta che rifaccio la sintonia, i canali si mettono in una numerazione nazionale che è stata stabilita, ancora non completamente, ma diciamo con un po' di polemiche, ma è stata quasi stabilita, e per cui comunque RAI 1, 2, 3, Rete 4, Rete 5 e la 7, tanto per intenderci, occupano in quest'ordine le prime 7 posizioni. Sì. Allora a questo punto, se diciamo, tutte le possibili soluzioni interne non funzionano, cosa succede? Dobbiamo chiamare l'antennista? Non c'è altra strada, a meno che non siamo capaci noi di mettere le mani sull'impianto, ma insomma... Allora, il più delle volte negli impianti centralizzati il problema risiede nella centralina, che è nel tetto vicino all'antenna comunque, che contiene dei filtri che avevano senso nel mondo analogico e non hanno più senso adesso in quello digitale. Questi filtri permettevano di far passare soltanto determinate frequenze, evitando tutte quelle che non ci interessavano ed evitando anche dei disturbi che nel mondo analogico erano possibili si palesavano con una cattiva ricezione, con gli sdoppiamenti, eccetera, eccetera. E questi filtri oggi... Questi filtri cosa fanno? Impediscono alcune frequenze di scendere nel cavo d'antenna e così facendo impediscono all'utente di sintonizzare dei canali che, come abbiamo detto, molte volte sono anche più importanti. Per fare questo bisogna normalmente chiamare un personale specializzato, quindi un antennista che si occupi di eliminare questi filtri o comunque ritararli per far passare tutte le frequenze del caso. È chiaro che tutti i condomini stanno chiedendo agli antennisti di fare questi interventi in questo periodo, anche perché prima di questo periodo il vero assetto delle frequenze non si conosceva, certo. Quindi non si è potuto anticipare nessun intervento. Anche noi stessi da questi microfoni abbiamo detto aspettate a chiamare l'antennista, sì, perché sì. Sennò sarebbe stata una chiamata a vuoto. Quindi mi sembra di capire che allora, un po' di problemi ce li dovevamo aspettare, un po' i broadcaster, probabilmente più Mediaset che ha l'interesse di promuovere Mediaset Premium in concorrenza con Sky in modo particolare, un po' di dolo ce lo ha, lo possiamo riconoscere. Nel diciamo senso che hanno preferito assegnare le frequenze prioritarie e importanti a dei canali che avevano bisogno di lanciare piuttosto ai canali nazionali che chiaramente sapevano che poi il cittadino si sarebbe adeguato certo, ma lo stesso devo dire, non è che bisogna buttare la croce addosso a Mediaset, anche la stessa Rai per come ha posizionato Rai 1, 2, 3 su Milano evidentemente ha voglia di far sì che gli utenti ricevano anche oltre a questi canali per cui si attrezzeranno di sicuro anche dei canali secondari sempre di produzione Rai gratuiti, quindi non a pagamento ma che evidentemente sui quali poi viene fatta della vendita pubblicitaria e quindi hanno bisogno di audience. Sugli antennisti tu dicevi che prima di iniziare la nostra trasmissione mi dicevi che a Milano, comunque nelle zone lombarde, alcuni antennisti hanno prenotazioni addirittura fino a febbraio-marzo. Sì, assolutamente sì. Quindi questo è un grande business per gli antennisti che in alcuni casi potrebbero ricevere una adeguata tirata d'orecchie, giusto? Ma assolutamente sì, e soprattutto per la zona di Milano, dove c'è ovviamente la maggiore concentrazione di utenti. In questo caso il Ministero delle Attività Produttive e DGTV, il consorzio che gestisce il digitale terrestre in Italia, aveva predisposto una lista, la possibilità di avere una lista di antennisti da chiamare anche per come di favorire la concorrenza, diciamo così, e è stato chiesto a questi antennisti di sottoscrivere due documenti per entrare nella lista ministeriale. Uno era un codice etico e l'altro un preziario di riferimento, peraltro diviso per aree e non nazionale, perché ovviamente ci si rende conto che nelle zone più ricche l'antennista costerà un po' di più rispetto alle zone. Quindi questa era una buona cosa, diciamo. Questa era una buona cosa, e ne parlo così all'imperfetto, proprio perché è stato, diciamo, imperfetto poi l'implementazione di questo piano, perché per Milano hanno aderito due antennisti sulla popolazione, per la provincia di Milano, sulla popolazione di 2,5 milioni di persone, insomma è francamente... Cioè, immagino così a occhio che ce ne siano migliaia di antennisti. Migliaia. In provincia di Trento hanno aderito 866 antennisti, sia al codice etico che al preziario. Allora, sul sito di day.it noi abbiamo pubblicato entrambi i documenti, perché comunque sia il preziario può essere utile per i condomini e per gli utenti privati per saper valutare il preventivo che gli antennisti fanno. Come riferimento. Sì. Poi chiaramente nessuno ha preso un impegno formale a rispettarlo, però è un ordine di grandezza. Devo dire che non è un prezzario tirato, mi sembra anche abbastanza generoso tutto sommato, sul quale è possibile anche chiedere uno sconto. E quindi questo è già un bel riferimento per partire. E quanto al codice etico, in realtà è un decalogo di norme di assoluto buonsenso e di correttezza commerciale. Non c'è assolutamente niente di sofisticato, salvo ovviamente il fatto di, quando si prende un appuntamento, rispettarlo; quando si fa un lavoro, preventivarlo prima, in modo tale da e non sostituire parti che non necessitano sostituzione. Quindi stiamo parlando praticamente tutto nel settimo comandamento: non rubare, se volessimo in realtà semplificare molto. Il fatto che soltanto due antennisti abbiano deciso di sottoscrivere questi due documenti è francamente molto preoccupante, quasi una tacita ammissione di dolo, e che deve far rizzare le antenne, visto che parliamo di antenne, ai consumatori in maniera particolare, soprattutto quando ha a che fare con una categoria con la quale ovviamente noi non abbiamo nulla contro, di bravissime persone fino a prova contraria, che però, non sottoscrivendo questo documento, insomma, sì, anche perché, qualche colpa ce l'ha. Anche perché tu dicevi, il documento è una lista di norme dettate dal buon senso, e vi invitiamo a leggerlo. Io ringrazio Gianfranco Giardina anche per il lavoro della sua redazione di dday.it. Grazie, buon lavoro, in bocca al lupo a tutti quelli che devono fare la risintonia dei canali. Eh sì, tra altre cose dobbiamo anche segnalare che una bella iniziativa che si sta svolgendo nel Triveneto, per cui alcuni studenti universitari hanno fatto un'opera, diciamo, di volontariato, e girano nelle case soprattutto delle persone più anziane, proprio per gestire queste operazioni di risintonia. Sì, diciamo anche che a Milano il comune si è attivato per inviare a casa dei tecnici, che anche in questo caso provengono da un istituto che insegna queste tecnologie, per risintonizzare, insomma, per cercare di mettere a posto buona fortuna. Grazie Gianfranco, a presto. Grazie mille. Da questa settimana l'antitrust europeo ha avviato una indagine su Google per un possibile abuso di posizione dominante, naturalmente nel mercato dei motori di ricerca. L'azienda è stata denunciata dalla Microsoft tramite la controllata tedesca Chao, che è un sito di comparazione prezzi, da un altro sito francese che si chiama E-Justice e dal portale britannico, anche in questo caso un comparatore di prezzi, che si chiama Foundem. L'accusa è quella di avere penalizzato i concorrenti nell'elenco dei risultati delle ricerche. L'indagine non sarà facile, perché per stabilire come si comporta il motore di ricerca e capire se fa o meno discriminazioni sarà necessario conoscere il complesso, ma soprattutto segretissimo, algoritmo che lo fa funzionare, che è poi alla base del successo di Google. Per capirci qualche cosa di più è con noi oggi Nereo Sciutto, che è presidente di WebRanking, una società che si occupa di motori di ricerca, aiuta i siti internet ad essere ben posizionati all'interno dei motori di ricerca. Nereo Sciutto è sicuramente uno dei più importanti esperti di motori di ricerca in Italia, e direi anche un po' oltre i nostri confini. Bentornato a 2024. Grazie. Prima di entrare nel merito delle contestazioni, facciamo un ricapitolo delle puntate precedenti. Ripetiamo in estrema sintesi, semplificando molto, come funziona un motore di ricerca e nel caso particolare Google. Google utilizza una serie di software che navigano tutti i siti presenti in rete nel tentativo di archiviare tutte le informazioni che vengono rintracciate e riuscire a capire quali sono i siti più autorevoli per una specifica ricerca, cioè quelli che probabilmente sono più interessanti per l'utente. I siti sulla rete internet sono tantissimi, e come tutti quelli che usano Google sanno, le posizioni in prima pagina sono molto poche, per cui il grosso problema che ha Google è quello di fornire il migliore elenco possibile di siti presenti in prima pagina, in modo da dare la migliore esperienza agli utenti che lo navigano. Per farlo, come dicevo, usano dei software, per cui dei software che poi rispondono a delle esigenze di buon senso. Quindi questi software navigano i siti, cercano di estrarre i contenuti e poi li mettono in ordine. Il grosso problema che è emerso da questo tipo di contestazione riguarda sia l'algoritmo vero e proprio di Google, quello che mette in fila i siti cosiddetti naturali o organici, che sono quelli che, per chi naviga Google, vede si trovano nella parte a sinistra della pagina, che sono quelli per i quali non è richiesto alcun genere di pagamento, sia una seconda richiesta all'interno di questa procedura che riguarda come Google organizza o fa pagare i cosiddetti link sponsorizzati, che sono quelli che di solito si trovano verso destra, che hanno un funzionamento basato su un'asta, che quindi non è un algoritmo, bensì quanto le aziende sono disponibili a pagare per poter occupare le posizioni più alte di questa asta basata su ogni singola parola chiave. Questa, diciamo, è anche la fonte di guadagno principale per il motore di ricerca, basata però sui risultati che, come tu hai ricordato, sono quelli naturali e neutrali. Poi su questa parola alcuni potrebbero commentare negativamente. Comunque, diciamo che il motore di ricerca cerca appunto su internet, fa un indice, e quando noi facciamo una ricerca ci restituisce i risultati che secondo lui, poi per il momento, essendo il motore di ricerca Google il più utilizzato, fa quasi da punto di riferimento, comunque secondo lui sono i migliori. La prima accusa che fanno questi siti internet, e c'è chi dice che poi in realtà dietro questi siti internet ci sia sostanzialmente la Microsoft che sta cercando di fare concorrenza a Google con Bing, ma a fatica, l'accusa principale è aver penalizzato i concorrenti di un particolare servizio, cioè la comparazione prezzi nei risultati delle ricerche. È possibile una cosa del genere, o l'algoritmo tratta tutti allo stesso modo e quindi questa è un'accusa che non regge tanto? Allora, innanzitutto c'è da chiarire un aspetto: è abbastanza strano che si accusi Google, che è un motore di ricerca, apparentemente abbastanza strano, di essere in concorrenza con un sito di comparazione di prezzi, nel senso che sono due business completamente diversi. Il riferimento è legato al fatto che al di fuori dell'Italia, ad esempio nel Regno Unito e in Germania sicuramente, Google ha già lanciato, come negli Stati Uniti, un proprio servizio che si chiama Google Product Search, che prenderà anche il nome di Google Shopping, che serve per fornire agli utenti che cercano uno specifico prodotto all'interno di Google in un unico posto tutte le informazioni legate a chi vende questo prodotto, quindi sia il produttore che eventuali e-commerce, sia tutti i commenti che Google riesce a raccogliere da tutti i siti che li contengono, aggregati in un'unica posizione, per cui diventa esso stesso, questa è l'accusa, un player del mercato della cosiddetta shopping comparison, cioè della comparazione di prezzi e di siti che possono vendere un determinato prodotto. In questo senso uno shopping comparison muove un'azione verso Google. Sì. Giusto per farci capire, in Italia noi conosciamo Kelkoo, Shopidoo, che cos'altro, giusto per capire di quale settore stiamo parlando? Sì, esatto, sono proprio questi motori di ricerca che non hanno non sono essi stessi degli e-commerce, quindi non effettuano una vendita direttamente all'utente finale, ma si pongono come mediatore tra tutti i siti che possono vendere un determinato prodotto e gli utenti che cercano informazioni in grado di orientare i loro acquisti. Quindi in teoria, se io cerco un frigorifero oppure un navigatore GPS, se vado su questi siti la ricerca dovrebbe essere un po' più precisa rispetto al motore di ricerca generale, giusto? Sì, diciamo che sono verticali. Specializzati, sì. Sì, quello che accade è che Google stesso, cioè Google è diventato la porta d'ingresso per la navigazione, per cui è molto facile che si acceda a questi siti attraverso una ricerca su Google, per cui se io cerco informazioni su dove posso comprare un frigorifero o ad esempio quali sono i prezzi o le valutazioni di un determinato frigorifero, troverò probabilmente nei risultati della prima pagina di Google diverse pagine di questi siti a cui Google rimanda, e questi siti a loro volta attraverso un sistema pubblicitario, perché anche loro hanno un modello di business simile a quello di Google, per ogni click che viene fatto su questi siti ottengono un pagamento da parte del merchant, del venditore effettivo. E io a mia volta da questi siti vado a finire nei negozi elettronici. Esatto, perché alla fine in qualche maniera devi concludere l'acquisto, sì, e all'interno di questi siti non è possibile. Sì, un po' come le scatole cinesi, insomma. Sì, diciamo che sì, diciamo che sì. Se lo fai attraverso Google, sì. Se invece ne conosci uno e ti affezioni, effettivamente puoi fare quello che dicevi, di rivolgerti direttamente a lui e fare una ricerca al suo interno. Sì, sì. Ovvio che facendolo su Google li compari tutti. Sì. Quindi sostanzialmente questi siti di comparazione prezzi dicono: ah, tu Google stai entrando anche in questo settore, l'ennesimo settore che Google cerca di occupare, e quindi di fatto quando uno va sul sito google.com oppure .fr.de.it, tu mi penalizzi perché cerchi di mettere in primo piano i tuoi servizi. Questo di fatto poi si traduce per questi servizi in minor traffico generato e quindi minore pubblicità. Questo è un po' il succo. Sì, diciamo che la loro perplessità è proprio legata al fatto, cioè la loro accusa, quella da cui siamo partiti, è che Google abbia tenuto un comportamento scorretto nei loro confronti e, secondo il loro punto di vista, abbia penalizzato i loro risultati all'interno del proprio posizionamento. Il grosso problema, come dicevi all'inizio, è che questo non è facilmente dimostrabile e allo stesso tempo necessita di andare ad analizzare l'algoritmo stesso di Google, che è un segreto industriale, per cui non è una cosa che si possa mettere in piazza, e il motore di ricerca lo difenderà con tutte le armi che ha a sua disposizione. Quello che effettivamente è successo è che in passato Google ha adattato, come fa continuamente, il proprio algoritmo nel tentativo di dare risultati sempre migliori, e ha nel corso del 2010 introdotto un nuovissimo algoritmo che tendeva a privilegiare il produttore del contenuto, nel senso il vero proprietario del contenuto, che può essere la marca. Quindi, l'azienda del frigorifero, insomma. L'azienda del frigorifero, penalizzando un po' di più i siti che aggregavano informazioni prese da altre parti, senza introdurre nessun nuovo contenuto semantico, nessuna nuova informazione. Quindi ha detto: se tu costruisci un sito semplicemente aggregando una serie di prodotti che poi io troverò da un'altra parte, effettivamente non dai, dal mio punto di vista motore di ricerca, il miglior servizio possibile all'utente. A me motore conviene mandare l'utente più vicino possibile a dove può o comprarlo o ottenere l'informazione ufficiale. È quello che sta succedendo anche nel mondo dell'editoria con la riaggregazione degli articoli, per cui la fonte originale è solo una e ci sono tante altre fonti che li prendono e li fanno propri senza aggiungere nessun nuovo concetto, nessuna nuova informazione. Quindi Google sta, nell'interesse della sua politica, che è quella di dare il miglior risultato possibile, e introducendo algoritmi che diano un po' meno peso ai mediatori e un po' di più alla marca. E in questa maniera a 360 gradi, quindi non necessariamente su alcuni che sono quelli che stanno muovendo questo tipo di critica nei suoi confronti, ma nei confronti dell'intero pianeta che si pubblica, che si promuove su internet, sta facendo una scelta di merito che, essendo lui un motore di ricerca che deve posizionare una frazione infinitesimale dei siti disponibili sull'argomento in prima pagina, è costretto a fare la scelta di merito di Google è obbligata. Certo, perché ricordiamo che normalmente un utente di un motore di ricerca guarda la prima, la seconda, forse la terza pagina, ma ci sono dei dati su questo, mi pare, giusto? Sì, ce ne sono. A un certo punto si analizzava la percentuale di utenti che rimaneva in prima pagina, che era superiore al 70%, dopodiché si è cominciato ad analizzare un fenomeno ben diverso, che secondo me sarà capitato a tutti gli ascoltatori, che è quello quando, a fronte di una ricerca, il risultato non piace, non si prosegue neanche nella seconda pagina, ma la si modifica, quindi si aggiungono termini per raffinarla se sembra che il risultato sia troppo generico. E magari nella terza pagina c'era il risultato buono. Sì, bisognerebbe capire cos'è il risultato buono. Il vantaggio di Google rispetto a, se volete, ad altri motori, che è quello che io cerco di avere sempre un parere abbastanza neutro su tutti i motori di ricerca, il vantaggio, quello che ha mosso Google un po' di più degli altri, che è quello che ne ha sancito il successo, è che cerca sempre di dare questo, chiamiamolo risultato buono, comunque risultati che possono essere considerati buoni, il più in alto possibile. E quando l'algoritmo stesso non ci riesce, cercare di eventualmente correggerlo manualmente per cercare di, soprattutto in settori molto competitivi, di evitare che alcuni siti effettivamente sbagliati o che danno un'informazione sbagliata si trovino per sbaglio in prima pagina. Diciamo una cosa importante, giusto per fare capire quali sono le quote di mercato di Google, che sono un po' diverse in Europa rispetto agli Stati Uniti, giusto? Sì, esatto, è una cosa che molti magari non sanno. Google negli Stati Uniti ha una concorrenza molto più forte da parte degli altri motori di ricerca, che sono Bing, che è il nome del motore di ricerca di Microsoft, e Yahoo, che in questo momento sta fondamentalmente unendo le forze con Bing, per cui alla fine diventerà in pratica un unico motore di ricerca. Che in lingua inglese funziona un po' meglio, quindi è per questo che in America è un po' più forte rispetto agli altri paesi, giusto? Sì, esatto. I concorrenti di Google hanno investito, dal mio punto di vista, questa è scusa la mia opinione, un po' meno, decisamente meno, nella localizzazione geografica dei loro motori in lingua, per cui in country come l'Italia e la Germania Google ha cifre di mercato superiori al 90%, cifre di mercato intese come percentuale di ricerche che raccoglie lui rispetto a qualsiasi altro motore. Ci sono delle eccezioni interessanti. Beh, la prima è di carattere prevalentemente politico, cioè in Cina c'è Baidu, se non sbaglio, che esatto, è il più importante motore di ricerca, e Google quasi non esiste, forse anzi è uscito dal mercato. Sì, esatto, per note vicissitudini politiche. Sì, sì. Però ecco, invece, dove non c'entra la politica ma forse la tecnologia, interessante diciamo, il mercato giapponese, dove Yahoo è molto forte, dove è il primo motore di ricerca, e anche la Russia, giusto? Esatto, la novità più incredibile è che un motore di ricerca leader in Russia sia Yandex, un motore proprietario che ha di recente pubblicato anche una propria versione in lingua inglese, che a detta dei tecnici, degli addetti ai lavori, funziona molto bene ed è francamente in un mercato tecnologicamente molto difficile come quello dei motori di ricerca, perché se pensate alla mole di contenuti da aggregare, da analizzare, la tecnologia diventa strategica. Yandex ottiene la fetta di mercato più alta in Russia ed è una piacevole sorpresa, e ha fatto una mossa che Baidu tende a non vedere di buon occhio, che è stata quella di provare a uscire dai confini nazionali con una versione .com in inglese accessibile dal resto del mondo, cosa che invece i cinesi tendono a non voler fare. Bene, avete capito insomma che è un mondo anche molto complesso, ma la cosa importante è che stiamo parlando in definitiva di milioni di euro che girano, giusto? Esatto, tantissimi. Miliardi. Miliardi, in questo caso, perché l'eventuale procedura di infrazione verso la Comunità Europea dovrebbe avere come tetto massimo di richieste, in caso Google venga considerato colpevole di queste accuse che gli sono mosse, fino a un 10% del fatturato del motore di ricerca, che è enorme, considerevolmente alto. E quindi questo è un elemento importante. Io ringrazio Nereo Sciutto per essere stato con noi, buon lavoro e buon weekend, a presto. Grazie a te. E così concludiamo questa puntata di 2024. Quella che state ascoltando è la versione podcast. Come sempre ringraziamo tutti i nostri ascoltatori. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica 2024 scritto in cifra @radio24.it, quindi 2024 @radio24.it. Grazie a Paolo Corleoni oggi, che si è occupato della parte tecnica, Anita Panizza in redazione. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana, sempre il sabato nel pomeriggio di Radio 24, oppure online attraverso il sito internet o comunque attraverso il servizio podcast di Radio 24. Grazie ancora e buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.